È fatta. Allora, per venire non esattamente dalle sue parti, comunque in Veneto leggevo che in Valpolicella, nelle campagne della Valpolicella, gli agricoltori, i viticoltori sono tutti inferociti perché appunto muoiono animali, anzi molti più cani, gatti e animali da cortile che non topi, e quindi c'è una insurrezione in Valpolicella. Lei, se va in Valpolicella, non frega i cani, insomma. Beh, a noi, guardi, noi facciamo migliaia di interventi in mezzo mondo e non c'è mai successo. Non è mai successo. Che abbiamo ammazzato, perché bisogna fare le cose serie, ossia non buttare le esche libere così, anche se dovrebbero essere innocue perché sono basate su un peso specifico. Ossia il topo pesa 4 etti, se è grande 5, mentre l'uomo... quello che pesa meno pesa 30 o quintale, perciò anche quello, perché è basato sul peso specifico. Ecco, un ascoltatore di Trieste mi dice: a Trieste si mangia la cubana, che ho visto adesso su internet, mi sembra sia un dolce, io non lo conoscevo. La conosce Don Adon, la cubana? La cubana la conosco di nome. Di nome. Ecco, credo che il sotteso dell'SMS sia: quindi a Trieste hanno, cioè è possibile fare il collegamento? Ma certo. A Milano panettone classico, quindi il topo vuole, certo, il panettone. Certo, a Treviso, certo. Quando l'ha chiamato Gentilini, che gli ha fatto? Il sapore di prosecco, l'ombra? No, Gentilini, a parte che come amministratore è uno dei più efficienti, avrà i suoi difetti, ma... Comunque sappiamo che lui difende l'ombra, insomma. Quindi... Sì. No, a Treviso abbiamo fatto un impianto che è venuto anche la RAI e tante televisioni a vedere, perché abbiamo messo 3.000 scatole, 3.000 rat box che sono monitorati, che sono segnalati, che e con un disco l'amministrazione pubblica può vedere in qualsiasi momento dove si trova e in quale condizione è. Ecco, allora noi abbiamo in collegamento Francesca da Brescia. Buongiorno. Buongiorno, per la verità sono della Valle Camonica, in provincia di Brescia. Ok. Volevo chiederle come posso fare a liberare il mio giardino. Non so se sono talpe, topi, cosa sono, me lo stanno letteralmente distruggendo. Ah, attenzione, quindi il problema, però lei non ha capito bene se si tratta di un topo o di una talpa. Non lo so, perché alcuni fanno solo delle gallerie sottoterra e mi mangiano tutte le radici dei fiori. Ma delle quanto piante, grosse sono queste gallerie? Saranno, guardi, penso 7-8 centimetri di diametro, sì. Ah, c'è Donna Don che annuisce, ha già capito, sa già tutto. Tutto sa già tutto Donna Don. Allora signora, è facile sapere se sono topi, se fanno la mammella sopra terra, quella terra che viene su come una mammella, quelle sono talpe, quelle sono difficili da ammazzare, perché la talpa mangia solo i vermi del terreno. Provano tanti a dire mettiamo questo, mettiamo l'altro, ma la talpa mangia solo i vermi, perciò il problema non lo risolve. C'è un problema. Una volta mettevano le trappole e allora li prendevano. Se è topo non fa la mammella. E perciò allora là bisogna montare i rat box. Sei ancora collegato a Francesca? Fa o no il... No. Pronto? No, è andata, però abbiamo in collegamento anche Roberto da Milano che ci ha appena chiamato. Buongiorno. Ah, buongiorno. Mi dica. Sì, volevo sapere, ho di recente acquistato una casa nella campagna gallurese e non essendoci sempre, tutte le volte che torno c'ho sempre qualche topolino di campagna in casa e faccio un po' fatica a debellarli. Hanno una dieta particolare. E che mangiano in gallura? Donna Don, sì. Questo è allora, specifico, in gallura poi. Sì. In gallura si può lavorare bene con il girasole e con il popcorn. Il topo della campagna, lei ha topo, perché il topo della campagna che si chiama Arvicola, è un altro topo, ossia quello che ha col codino che è panciuto, col codino corto, mentre lei ha il topo di casa. Il topo di casa, lei prima di lasciare la casa deve mettere le esche, ossia mettere i famosi rat box, se la presenza di persone, e lasciando queste esche lei vedrà che quando che ritorna non avrà più il problema. Ecco, cerchiamo però di capire, prima di poi passare in rassegna le decine di sms che stanno arrivando, anche perché adesso ci chiedono dalle campagne trentine, suggeriscono tra uva e mele forse si potrebbe trovare qualche cosa. Però prima di passare a vedere, perché vedo che annuisce Don Adon, quindi abbiamo una risposta anche su questo, come fate? Nel senso, io so che state per andare in Libia. Certo. A derattizzare quindi il Tripoli. Quindi lo sbarco oltremare, Don Adon, come nasce questo contatto con la Libia? Cosa dovete fare laggiù? Il governo libico ha un grosso problema. Dopo l'embargo, tolto l'embargo, il presidente ha deciso di fare dei villaggi lungo la costa. Naturalmente che il clima è buono perché è molto secco, se uno ha dei dolori gli passano subito. Allora i vari investitori che dovevano fare questo villaggio si sono accorti che sui 6 milioni di abitanti, 800.000 dichiarati hanno preso leishmaniosi, che è trasmessa dal topo del deserto alla sunfly, una piccola zanzara a quale punge l'uomo, le crea una chiazza di rossore e poi si lacera anche la pelle. Perciò è un problema molto grave. È un problema sanitario. Problema sanitario. Allora noi abbiamo appunto... Adesso il nostro programma è di eliminare il topo del deserto, che è il topo più difficile del mondo, perché il topo del deserto non trova né la plastica, né il formaggio, né il popcorn. Perché la plastica? Perché il topo mangia anche la plastica. Il topo del 2000 è come un giovane, preferisce la plastica come il giovane che preferisce il fast food alla cucina tradizionale. Il topo quindi preferisce adesso i derivati del petrolio a un bel piattone normale. Certo, mangia la plastica intanto per rodere, specialmente se la plastica o i tipi di plastica sono molto duri, e lui ha bisogno di rodere, perciò mangia i fili della lavatrice, mangia i fili della macchina che se la tiene in garage. E quindi voi avete anche delle esche a base di granulato di plastica. Noi abbiamo l'ultima esca che è stata registrata in tutto il mondo e protetta, che è fatta con granuli di plastica, naturalmente trattati in maniera particolare. Cibo spazzatura che però funziona, insomma. Certo, noi invece aiutiamo a riciclare la plastica. E allora diceva il famoso topo del deserto, perché è il più difficile del mondo? Essendo un topo molto, molto grande e ha un grosso fiocco nella coda. Ha un grosso fiocco nella coda, il quale mangia solo le radici del deserto e come acqua c'è un cespuglio che sono come gli aghi di pino, piccoli cespugli che se tu li prendi in mano e li stringi esce l'acqua. Perciò noi abbiamo dovuto assaggiare dai nostri cuochi di preparazione di esche le radici per capire il sapore di queste radici e da lì fare l'esca giusta. Quindi insomma la battaglia con il topo del deserto non è ancora finita, battaglia di Libia è aperta. Nova Lab 24. Bentornati, Luca Tremolada al microfono, fa brutto dirlo, stiamo parlando di esche personalizzate per derattizzare le città. Fa brutto, però insomma è interessante perché abbiamo scoperto una perché cosa che non sapevamo. Perché abbiamo qui il leader mondiale della derattizzazione. Massimo Don Adon, abbiamo imparato che insomma paese che vai, topo che trovi e gusto che trovi. Leggiamo... E soprattutto quando uno ha un'idea vincente, insomma...

finché voglio, però alla fine devo mettere un elemento rassicurante. Rassicurante per il cliente di là? Per il cliente, certo, che può essere anche un purè, anche un ricordo di una, un ricordo di una storia, un ricordo di un'infanzia, un ricordo della mamma, e noi surroghiamo il latte materno e quindi siamo, in questo senso siamo più vicini. Vedo che è più facile per me che non per un topo, perché noi non li conosciamo così bene. Senta, Pierangelini, però adesso, insomma, dobbiamo giocare, anzi, dobbiamo passare, diventare seri. Adesso lei deve dare qualche consiglio a Donadon, da chef a chef, per risolvere il problema del topo del deserto. Lei ci deve dire che cosa gli darebbe da mangiare al topo del deserto. Io al topo del deserto, io ho fatto un piatto quando per 32 anni non ho preso l'aereo, però ero pazzo di alcune storie. Uno dei piatti più belli della mia cucina si chiamava Piccione alle spezie d'Oriente, souvenir di un viaggio mai fatto. Bellissimo, il nome è già il nome poesia. È bellissimo, già il nome te immagini qualche cosa, anche se il piccione a me un po' spaventa. E quindi io direi di giocare sulla magia delle spezie, sulla magia dei profumi, che sono comunque, credo che il vento li porti anche nel deserto, e quindi metterei il cardamomo, metterei sicuramente la galanga, metterei un po' di curcuma, metterei dei profumi che hanno, metterei dell'anice stellato, ma poco, e cannella poca, metterei piuttosto anche delle rose, dei petali di rosa, e il cardamomo sicuramente prevalente, e poi giocherei su qualche pepe. Farei una fantastica presina di alle spezie. Donadon. Ha preso appunti, Donadon. Sì, intanto mi fa piacere di quello che lei ha detto, essendo un cuoco dei più validi d'Italia o del mondo, che mi ha parlato che bisogna sempre avere una base, ossia quella del nonno, quella della madre, e questo già ci rassicura sulla cucina. Secondo, giustamente, quando che lei ha parlato delle spezie, sono importanti in quel paese, perché è un paese che i cibi sono molto piccanti, ma bisogna tenere presenti anche che hanno sempre un po' di dolciastro in fondo, che io conosco un po' questi paesi, specialmente adesso che vado spesso per lavoro, e perciò noi aggiungiamo del dattero schiacciato, e vedo che ha un grosso risultato. Funziona. Perché funziona. Lei mi diceva l'olfatto prima. Ah, il problema è l'olfatto, anche i suoi clienti, se io lo so, io per fortuna ho un buon, sento gli odori da lontano e anche l'olfatto, perché la gente, non tutti capiscono di cucina e possono apprezzarla se non hanno l'olfatto, ossia il suo cliente, se ha un buon olfatto, sa distinguere un piatto da un altro, altrimenti mangia con gli occhi. Ecco, ma io che sono un po' animalista, spezziamo una lancia a favore dei topi, ma è possibile che i topi capiscano l'inganno? Cioè che a un certo punto il topo di New York dice, sta arrivando Donadon, cioè non mi freghi più, cerco di cambiare dieta, perché no, nel senso. Vedi, se vogliamo giocare, giochiamo, ma se il topo è un animale pericoloso, perché trasmette circa 150 malattie. Il problema è che lui è un veicolo di infezioni, avendo la pelle molto grassa, dove che si annidano certi insetti, certi bisogna eliminarlo, perché il topo è un veicolo nella casa, ti inquina le vivande, ti inquina le derrate alimentari. Difatti adesso vedo che anche il nostro Ministero della Salute, specialmente nelle industrie alimentari, è molto severo. Infatti, ecco, ma nei vostri laboratori come funziona? Cioè che voi avete dei ratti da tutto il mondo e no, non lo so. No, i nostri laboratori funzionano con delle prove, con le prove, perché sul laboratorio il topo in gabbia ha una reazione diversa dal topo nel terreno o nella casa, perciò bisogna fare dei test, ossia è importante fare ricerca quella seria, ossia fare dei test in vari posti, nel magazzino del formaggio, nell'industria, non so, del vino, ipotesi. Il topo io ho visto in Erz della Frontera che ama molto il sherry. Difatti il topo, ma questo non me l'aspettavo del sherry. Si ama molto il sherry, ama molto questo dolce del vino. Difatti Domecq, il proprietario di questa grande cantina che è stata fatta da Ligier Eiffel, è fantastica solo a vederla, appunto mi spiegava, dice che il problema è che quando mettono il vino, i sherry, la prima fase, che la botte rimane aperta per vari motivi, i topi vanno a bere lo allora sherry. Grazie a Pierangelini, sei ancora in ascolto, poi non grazie, so sono qui io sono non qui. So se Pierangelini lei deve prendere come consulente Donadon o Donadon prendere come consulente Pierangelini, però insomma tra colleghi potreste scambiarvi qualche segreto. Direi che il signor Donadon è invitato nei nostri meravigliosi alberghi da Berlino ad Abu Dhabi, passando per Roma, Firenze, la Germania e Bruxelles, Ginevra, beh Ginevra con il lago pieno di topi, no, fantastico. Sono venuto nel vostro di Londra e con il signor Luciano Benetton e siamo venuti a mangiare proprio là. E siete andati nelle cucine a scoprire non i segreti? Non abbiamo no, visto. Bene. Grazie Pierangelini. Venga a Roma che è troppo bello. Va bene, d'accordo, grazie. Arrivederci. Va bene, noi arrivederla. Nova Lab 24. Nova Lab 24. Il premio Nobel per la chimica è stato assegnato agli americani Ramakrishnan e Staitz e alla israeliana Ada Yonath per i loro studi sulla struttura dei ribosomi. I tre scienziati ne hanno determinato il comportamento a livello atomico impiegando una tecnica di cristallografia a raggi X. È il più grande anello di Saturno mai osservato. Il telescopio Spitzer della NASA lo ha rilevato all'estrema periferia del sistema del pianeta. L'anello, composto da particelle di ghiaccio e di polvere, non era mai stato individuato poiché non riflette la luce visibile. Spitzer lo ha localizzato grazie ai raggi infrarossi. Un software gratuito per monitorare i consumi energetici, scavalcando le società erogatrici di elettricità. È il progetto annunciato da Google che, per realizzarlo, ha stretto un accordo con l'azienda privata Energy, che fornirà un apposito apparecchio di misurazione. Intanto, c'è stato pericolo per gli utenti Gmail, dopo l'attacco di phishing segnalato ieri. Nessuna breccia nella sicurezza, 500 i casi di violazione. Kindle arriva in Italia. Dopo il lancio sul mercato di oltre 100 paesi, Amazon ha scelto di distribuire il suo e-reader anche da noi a partire dal 19 ottobre. Intanto l'azienda ha annunciato una diminuzione del prezzo del dispositivo per far fronte alle concorrenti, prime fra tutte Sony. L'innovazione? Roba da pirati. Sugli scaffali delle librerie sarà disponibile a partire da oggi Punk Capitalismo, il libro di Matt Mason che racconta come i movimenti giovanili e in particolare la pirateria nella musica e nelle immagini hanno cambiato i modi di fare business. Roba pirante, non te l'aspettavi la storia del topo, eh? No, devo dire che qui... topi e tecnologia, perché esatto. Alla fine, cioè, come dire, non è soltanto Ratatouille, ma sembra di capire una tecnologia, un affinamento di laboratorio sui, sì. Sui uomini topi. E topi, per fare una citazione un pochino più alta e rotta. Ma noi oggi siamo qui per parlare che domani esce Nova e abbiamo dentro Punk Capitalism, abbiamo che sto leggendo, Punk Capitalism, è bellissimo, di cui hai bellissimo. Parlato e che insomma in qualche modo è una provocazione. È racconta di come anche i pirati possono confrontarsi col mercato e possono diventare una sfida capitalista, appunto, di opportunità di business. Mentre la copertina recita: voglio una banda spericolata, che non è una banda musicale, che non è una canzone di Vasco Rossi, ma parliamo di tecnologie diverse da quelle delle mangimi dei topi, ma tecnologie che sono indispensabili lo stesso tutti i giorni, di altro genere sono le tecnologie di connessione. Infatti partiamo, diciamo, da una domanda: è nato prima il bit o il nostro bisogno di bit? Perché come dire, tutta la digitalizzazione porta una sempre maggior fame da parte nostra di cavi che ci possono permettere anche la connessione. Tu sei sicuramente nato prima al bit, perché non ti sei fatto prendere dal Twitter, dal Facebook. Questa è una vecchia polemica è che tu stai così in maniera sotterranea. Non sono caduto nella domanda di bit. Non sono un digital native, ecco. Ma neanche tu questa d'altra parte. No, neanche io. Sei un po' borderline, però insomma. Io non so se è nato prima il bit o il nostro bisogno di bit. So però che oggi c'è bisogno di bit, bisogno di connessione. Di connessione ovunque. E che il piano del governo non è ancora stato. Non c'è una lira per il piano dei romani della banda larga, e che era già sottodimensionato rispetto alle aspettative. Alle cose. Noi parliamo di tecnologie, di quello che sarebbe possibile. Poi dopo, quello che è possibile... Il problema è che bisognerebbe anche farlo. Concretizzarlo, questo non c'è altro. Però, insomma, pian piano io credo che, comunque, come diciamo anche nel paginone, la competizione avviene anche su queste infrastrutture, ovviamente, che tra paesi e così. L'Italia non è messa bene nella classifica, però insomma, per esempio noi parliamo di un software dove ogni singolo cittadino può... confrontare il proprio software, la propria banda larga, il proprio servizio di banda larga in maniera singola e autonoma, e vedere, capire qual è la qualità, che non sempre è soltanto velocità, però insomma. Possiamo dire che dentro ci sono tutte le risposte alle domande che ci stiamo ponendo sulla banda larga, la possiamo dire? Tutte, quasi tutte. E noi sicuramente ci sentiamo domani alle 16. Grazie di essere stati con noi e grazie a Massimo Donadonna. Ciao, grazie. Nova Lab 24.